Carissimi ragazzi e ragazze, ben ritrovati a tutti su Radio Buon Consiglio e Ave Maria da parte di Don Leonardo Maria Pompei. Cominciamo oggi, a Dio piacendo e con il suo aiuto, l'ottavo comandamento nel nostro ciclo di catechesi sui 10 comandamenti. Oggi cercheremo di introdurre questo nuovo comandamento, cercando di focalizzare il suo oggetto immediato ed anche il suo oggetto, diciamo così, allargato, per iniziare subito, quindi senza perderci in troppe parole, questa nuova analisi, ecco, di questo ottavo precetto del Decalogo. La volta scorsa, ricorderete, abbiamo concluso il settimo comandamento, presentando i 10, diciamo così, principi fondamentali della dottrina sociale della Chiesa, di strettissima attualità, e quindi chiudendo il discorso su quello che era il settimo comandamento, che vi ricordo riguardava la retta amministrazione dei soldi e dei beni di questo mondo. L'ottavo comandamento, tutti quanti sappiamo che si formula con l'espressione non dire falsa testimonianza, cosa che fa comprendere subito che il bene tutelato è la verità e la veracità, ecco, no? Quindi contro falsità e falsificazioni. Però si capisce anche abbastanza intuitivamente che lo spettro di questo comandamento si amplia andando a renderci conto e quindi a indicarci la via su come usare bene un dono importantissimo, perché è ciò che ci rende uomini, che è quello appunto della parola, che dobbiamo tutti imparare a indirizzare e ad utilizzare per il bene, cercando di eliminare tutte le modalità cattive, non purtroppo molto infrequenti, sia nel piccolo che nel grande, con cui questo grande dono che il Signore ci ha fatto può essere utilizzato. Voi sapete che l'uomo è l'unico animale che parla, e noi sappiamo anche che l'uomo parla perché pensa. Ecco, dite sempre, ragazzi carissimi, a tutti quanti i fautori della teoria dell'evoluzionismo, quello che rispondo sempre io, pur senza fare tanti e lunghi discorsi scientifici, voglio dirgli così, dice, guarda, quando tu mi presenterai uno scimpanzé che dopo qualche anno vissuto in una famiglia come la nostra, mettici pure che poi gli trovi una bella mogliettina e faccia dei piccoli scimpanzé che sono i figli, piano piano impara a parlare, ecco, allora io crederò che noi uomini veniamo dalle scimmie. Il problema è che i fumetti e che gli animali parlano soltanto nei fumetti e nei cartoni animati di Walt Disney, ecco, non nella realtà. E non parlano perché non pensano. Quindi il parlare, voi sapete che c'è differenza tra parlare e pensare. Io adesso sto parlando perché il mio pensiero si esplica attraverso la voce. E che la voce funzioni è un problema anche di tipo strettamente fisico. La mia voce funziona perché sono per ora intatte le corde vocali. Qualora le corde vocali dovessero rompersi, io non potrei più parlare emettendo dei suoni. Ecco, potrei continuare però a pensare ed eventualmente dovrei parlare in maniera alternativa, come per esempio c'è l'alfabeto dei sordomuti. O come ci sono dei macchinari che penso che sappiate vengono messi nella zona delle corde vocali, insomma della gola, penso che adesso siano un pochino più sofisticati, che pur producendo dei suoni metallici comunque in qualche modo sostituiscono le corde vocali. Quindi la parola è segno dell'attività del pensiero, però è una cosa molto importante perché la parola è il pensiero espresso. Pensiero che non si esprime soltanto con le parole, anzi, io richiamo, perché sempre penso richiamo non sufficientemente fatto che noi comunichiamo non soltanto con le parole, o meglio, non soltanto con la significazione espressa dalle nostre parole, noi comunichiamo con il tono con cui parliamo, quindi con il modo con cui parliamo. Io posso parlare con perentorietà, con dolcezza, con durezza, con asprezza, con amore. Le mie parole possono essere, come dire, una mano che accarezza o una spada che colpisce. Quindi, ecco, ma non solo, a volte parliamo anche semplicemente attraverso dei gesti che noi facciamo, no? Adesso, per esempio, per radio, se non ci fosse la parola, l'unica forma di comunicazione alternativa, come dire, o che si affianca alla parola, è il tono della voce. Però, gli ascoltatori adesso non possono vedere il mio volto, non possono vedere l'espressione del mio sguardo, non possono vedere anche eventualmente il mio gesticolare. Sono tutti modi con cui, si danno dei forti input comunicativi. Però nella relazione reale, anche il modo con cui camminiamo, stiamo seduti, ahimè, e alcuni padri della Chiesa, su questo vi esorto a leggerli, erano assai forti e significativi. Io ricordo, ve lo racconto, un episodio che ci raccontava, io sono stato in due seminari diversi, uno a Roma e uno a Latina, il rettore del seminario di Roma ci raccontava l'episodio di un padre della Chiesa, io non ricordo adesso chi era, forse San Giovanni Crisostomo, ma non ci metterei la mano sul fuoco. Comunque era un vescovo di Costantinopoli. E praticamente non mi ricordo se era già finito l'impero romano d'Occidente, o comunque se era già stato diviso dopo Costantino, quindi c'era l'imperatore romano d'Oriente e l'imperatore romano d'Occidente. Insomma, eleggono questo nuovo imperatore e non so come, non so perché, questo padre della Chiesa, vescovo di Costantinopoli, lo aveva visto e gli aveva fatto la fotografia, lo screening, no? Quindi lo aveva osservato più che visto, i gesti, la postura, le cose. Lui disse istantaneamente: "Preferirei non avere nessun tipo di rapporto con quest'uomo, per questo non farà altro che male all'impero", e non aveva ancora aperto bocca. E poi di fatto così fu. Ecco, questo per farvi, non si tratta di, capite, di voler, questo per far comprendere quanto è importante, perché tutta la nostra persona, qui dobbiamo anche, perdonatemi se faccio queste premesse, come dire, rifare un pochino di pace nel rapporto tra mente e corpo, tra anima e corpo, cioè, perché qualcuno ha giustamente chiamato, un'espressione che è un po' forte, ma a mio avviso molto consona, il corpo, guardate, l'epifania sacramentale della persona. Tu dici: "Mamma, che parolaccia". Epifania, vi ricordate, il 6 di gennaio? Epifania in greco vuol dire manifestazione, d'accordo? Epifano, ma in greco, sacramentale. Voi pensate a ogni sacramento: in ogni sacramento noi abbiamo una cosa visibile, pensate al pane, al vino nell'Eucaristia o all'olio nell'unzione degli infermi, che però porta dentro di sé una realtà non visibile. Quindi la nostra corporeità, che vuol dire che epifania sacramentale della persona, vuol dire che attraverso il mio corpo, le mie espressioni, i miei gesti, le mie parole, tutto ciò che cade sotto i sensi, manifesta ciò che io sono nel cuore. Capite? E noi ci tradiamo molte volte attraverso le nostre espressioni, perché bisogna avere una grandissima virtù per essere capaci di controllare perfettamente le nostre reazioni esterne. Allora basta a volte uno sguardo per distruggere una relazione. Basta mezza parola o anche una risposta non data, quando uno se la attenderebbe, per distruggere un rapporto. È un problema, ragazzi. È un problema che non ci deve, come dire, intimorire o spaventare, perché noi chiaramente siamo figli di Dio, abbiamo la grazia di poter confidare nell'aiuto del Signore nel nostro cammino di perfezione. Però Però dobbiamo essere consapevoli. Adesso, infatti, all'inizio del discorso sull'ottavo comandamento è sempre bene introdurre con alcune magistrali espressioni del Nuovo Testamento che fanno comprendere l'importanza delle parole. Ecco, perché certamente la gran parte della comunicazione, accennavo prima, dicono gli esperti addirittura oltre il 90%, è non verbale, però le parole possono o non possono fare molte cose. Quindi cominciamo a vedere subito cosa dice il Nuovo Testamento, almeno un paio di passi molto significativi sulle parole. Gesù nel Vangelo di San Matteo usa questa espressione abbastanza severa, ecco. Santamente inquietante, potremmo dire così, no? Dice: io vi dico che di ogni parola infondata gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio, poiché in base alle tue parole sarai giustificato e in base alle tue parole sarai condannato. Impressionante. Di ogni parola infondata gli uomini, sai, che renderanno conto nel giorno del giudizio. Quindi pensate a quanto è importante. Infondata, che significa infondata? Guardate ragazzi, se noi parlassimo sempre per amore di Dio, per amore del prossimo, non incorreremmo in questo problema. Tuttavia, dal momento che non parliamo sempre per questo motivo, una parola può essere infondata per una svariata o numero di motivazioni, no? Può essere una parola offensiva, può essere una parola falsa, può essere una parola anche inutile, può essere una parola imprudente, può essere una parola avventata, quindi detta troppo precipitosamente, può essere una parola pungitiva. Può essere una parola superba, può essere una parola arrogante, e può essere una parola che semina zizzania, può essere una mala parola, può essere una maldicenza, può essere una volgarità. Ecco, potrei continuare a tempo indeterminato, quindi ho fatto una piccolissima rassegna di alcune cose, che non vanno. Ecco. Il Signore ci esorta, attento, attento, perché noi parliamo, parliamo, parliamo. Come disse in qualche circostanza il nostro vescovo Giuseppe, bisogna distinguere tra le parole, che sono quelle che il Signore vorrebbe sentir dire dai figli degli uomini, cioè buone parole, e le chiacchiere. Le chiacchiere sono le cattive parole, cattive non soltanto perché cattive, maligne, maldicenti, calunniose, eccetera. Poi approfondiremo nel corso di questo excursus queste singole tipologie. Ma cattive anche perché dette in maniera che non servono assolutamente a niente, che non giovano a nulla. Ecco. Quindi teniamo presente che a differenza dei consacrati, quindi dei frati, delle suore, dei monaci e delle monache, che hanno, diciamo così, nel silenzio monastico, come dire, un compito e anche una difesa per certi aspetti dall'uso improprio della parola, noi che viviamo nel mondo, non soltanto che non l'abbiamo questo, ma non possiamo vivere questo, non possiamo diventare seriosi o taciturni, anche perché nella vita sociale, nella vita del mondo, è assolutamente fondamentale il tessuto relazionale, quindi noi dobbiamo parlare, quindi dobbiamo affrontare la fatica di imparare a non parlare a vanvera e di imparare a non parlare in maniera completamente inutile. Ecco, e questo richiederà un sacrificio e un impegno. Ragazzi, mi raccomando, impegno e sacrificio che è senza dubbio e senza alcuna remora da dover affrontare. Oltre a questo passo dove c'è il Signore in persona che dà questo insegnamento, ammonendoci da un uso improprio della parola, abbiamo anche suo cugino, l'apostolo San Giacomo. Sapete che San Giacomo non era il fratello carnale di Gesù, a suo tempo approfondì questa cosa in altri contesti e in altre catechesi, ma era il cugino carnale, era il figlio di Alfeo, che sembra che fosse il fratello di San Giuseppe. Tant'è vero che si chiamava anche Giacomo di Alfeo, come lo chiamano i Vangeli. Quindi era il cugino del Signore, è stato il primo vescovo di Gerusalemme e ha lasciato scritta una lettera cattolica. Sapete che oltre alle lettere di San Paolo, nel Nuovo Testamento, abbiamo alcune lettere cattoliche. Tre di San Giovanni, tutti sappiamo chi era San Giovanni, due di San Pietro e poi una per una dei cugini carnali di Gesù, che sono Giacomo di Alfeo e Giuda Taddeo, una lettera molto breve, di un solo capitolo, Giuda Taddeo, che a sua volta era il fratello carnale invece di San Giacomo di Alfeo, quello di cui stiamo parlando adesso, e anche lui figlio di Alfeo, appunto, quindi figli del fratello di San Giuseppe, quindi probabili compagni d'infanzia anche di Gesù, però questo insomma non possiamo saperlo con certezza. Comunque, San Giacomo fa eco a queste parole che abbiamo appena ascoltato da parte del Signore, circa i gravissimi danni e i non meno gravi peccati che possono originarsi da un uso non corretto, sconsiderato o cattivo della lingua. Ecco, sentite cosa scrive nel terzo capitolo della sua lettera, che vi raccomando, almeno una volta nella vita bisogna farlo, bisogna prendere questo terzo capitolo e meditarlo con estrema attenzione. Meditarlo con estrema attenzione, magari scriversi qualche espressione, farsi un bel quadretto da qualche parte, attaccarselo da qualche parte, ogni tanto andarla a rivedere. Ecco, sentite cosa dice: la lingua è un piccolo membro e può vantarsi di grandi cose. Vedete un piccolo fuoco quale grande foresta può incendiare? Anche la lingua è un fuoco. È il mondo dell'iniquità, sentite che espressione forte, cruda, vive inserita nelle nostre membra e contamina tutto il corpo e incendia il corso della vita, traendo la sua fiamma dalla Geenna. Espressioni davvero forti, no? Quindi lo chiama mondo dell'iniquità, un fuoco. Allora voi pensate, no? Ed è proprio così. È proprio così. Non so da queste parti, noi qui abbiamo vicino il Parco Nazionale del Circeo, l'estate fa molto caldo e c'è ogni tanto qualche piromane. Per mandare a fuoco un bosco l'estate, ci vuole mica niente, eh. Basta che uno accende un cerino e lo butta per terra. Capito? Quindi. E quindi bisogna tenere in serissima considerazione. Quindi una parola detta a sproposito può causare la fine del mondo. Continua, ma la fine del mondo, eh? Dobbiamo fare estrema attenzione, ragazzi, perché c'era un proverbio che diceva: mi sono spesso pentito di aver parlato, mai di aver taciuto. Una volta che una parola è stata detta, se è una parola che semina zizzania, se è una parola offensiva, quella parola resta, quantomeno resta impressa nella memoria. Dimenticarla, una volta che una persona l'ha sentita, è difficile. Non è impossibile, noi cristiani dobbiamo perdonare tutto quello che vuoi, ma per quanto uno perdoni, quella parola, se è violenta, brutta, cattiva, rimane comunque impressa, cristallizzata nella memoria. E sta lì. Quindi il demonio non ci mette niente in un momento difficile a soffiarci il suo fiato infernale sopra, a rievocarla, a riportarla a galla, e a causare problemi. Allora, infatti, ogni sorta di bestie e di uccelli, come continua, di rettili e di esseri marini, sono domati e sono stati domati dalla razza umana. Ma la lingua nessun uomo la può domare. Quindi, avete visto quanto è difficile? È un male ribelle, è piena di veleno mortale. Con essa benediciamo il Signore Padre e con essa malediciamo gli uomini fatti a somiglianza di Dio. È dalla stessa bocca che esce benedizione e maledizione. Non deve essere così, fratelli miei. Ed è anche qui un'altra espressione fortissima. È un male ribelle, piena di veleno mortale. Quanto male possono fare le parole? Anche qui, vedete, qui San Giacomo parla della lingua, no? Però pensiamo nel nostro mondo attuale. Pensiamo per esempio al mondo mass mediatico. Si potrebbe tranquillamente scrivere la penna nessun uomo la può domare, è un male ribelle. Ma oggi non si parla più neanche della penna. Voi sapete quanto male oggi, per esempio, si diffonde attraverso la carta stampata, attraverso gli articoli dei giornali, no? Le opinioni, quanto veleno continuamente viene sparso e espanso, ecco, in continuazione. Non si tratta neanche di penna, no? Perché oggi è la tastiera di un computer. Penna è diventata un'espressione simbolica. Cioè uno scrive e ti dicono: ah, ma tu c'hai una bella penna. Penna è diventata un'espressione simbolica perché nessuno scrive a penna. Oggi si scrive davanti a una tastiera di un computer, no? Quindi capite che tutte queste espressioni sono. Quindi bisogna fare attenzione quando si parla al pensiero comunicato. Quindi, per esempio, il santo curato d'Ars lo spiega benissimo nelle sue omelie. Peccato di maldicenza. Peccato di maldicenza non è soltanto parlare male di qualcuno, d'accordo? Ma se uno comincia a parlarti male di qualcuno e tu anziché distogliere l'attenzione fai semplicemente un gesto di approvazione, magari un gesto con gli occhi come per dire questa è una parte, tu stai di sapessi quante altre ne so io e non te le dico, ma non lo dici, lo lasci intendere con uno sguardo, tu hai fatto peccato di maldicenza più grave di quello che hai cominciato a parlare, pur non avendo aperto bocca. Vedete la comunicazione non verbale. Immaginate che io ogni tanto faccio questo esempio. Esco dal confessionale, voi sapete, no? Un prete non può assolutamente dire nulla della confessione, zero. Non può né dire i peccati né dire il penitente, tantomeno infrangere direttamente il sigillo sacramentale, no? Quindi, cioè dire un peccato che sia riconducibile al singolo penitente per cui c'è la scomunica immediata, no? Ma immaginate che un prete confessa solo una persona. In chiesa c'è gente, esce dal confessionale e fa un gesto, mo per radio non lo potete vedere, se qualcuno vedrà il video, potrà vedere dal video tipo fare, cioè, avete visto quel gesto che si fa con la mano quando uno dice, mamma mia, non ha aperto bocca, non ha rivelato né il nome del penitente né i peccati, ma è scomunicato, perché sta dicendo, sta persona che è appena uscita ne ha fatte quante carne in Francia, quindi anche se non specifichi i singoli peccati, tu hai già violato gravissimamente la privacy della persona presentandola come pubblico peccatore, cioè come pubblico, come grande peccatore. Capite? Guardate ragazzi, vi supplico in ginocchio, a distanza. State attenti alla vita relazionale, rapporti tra amici, rapporti tra fidanzate, ma state soprattutto attenti ai rapporti matrimoniali. Un matrimonio vive continuamente di queste cose. E noi cristiani dovremmo essere esperti, e non se ne dovrebbe parlare tanto, si dovrebbe vedere tanto, solo di una cosa, che è la carità. Ricordate quando abbiamo parlato del sesto comandamento, uno dei grandi, delle grandi chance, diciamo così, che è offerta dal vivere il fidanzamento in maniera cristiana, sapete qual è? È questa, che evitando di fare prima del tempo tante cose che non è opportuno fare, si può durante il fidanzamento vivere alla grande l'amore di amicizia, cioè imparare a manifestarsi l'amore autentico con i gesti, con le espressioni affettuose, cioè non può avere contatti sessuali. E chi ti sta vicino? Riempilo di carezze. Le carezze, noi abbiamo bisogno delle carezze, ma le carezze belle, le carezze che ti fanno sentire la vicinanza umana. Non puoi fare chissà che cosa. Prendi la mano della tua fidanzata, stringitela al petto, stringitela al cuore, gira con le dita intrecciate, fagli sentire queste cose qui, no? Non riduciamo sempre tutto quanto all'aspetto peggiore, perché se dentro il matrimonio queste cose non ci saranno, la voglia a vivere anche tutte le dimensioni della sessualità, la sessualità, se non è vissuta come linguaggio di amore, può diventare una cosa brutta, come tutto il mondo della pornografia, non voglio riprendere i discorsi che abbiamo già fatto, ci dimostrano. Cioè può diventare semplicemente io godo di te, ti succhio, succhio da te tutto quanto il piacere traibile, ma l'altra persona di questa cosa se ne accorge. Nessuno di noi è contento quando noi siamo in qualche modo usati, quando una persona che ci sta vicino ci usa per i suoi fini. Chi di noi è contento quando ci accorgiamo che dentro una relazione una persona mi è stata vicina soltanto perché gli servivo, magari perché faccio l'avvocato, o perché sono una persona influente, o perché sono amico di tizio, e poi quando non gli ho servito più mi prende e mi butta via? Quello non è amore, quello è utilitarismo, quello è strumentalizzare la persona ai propri fini, no? Ma dentro una benedettissima casa, dentro una famiglia, se non c'è un linguaggio d'amore, cioè il matrimonio è il sacramento dell'amore, ma l'amore non è chiacchiera, l'amore non è poesia. L'amore passa attraverso dei piccolissimi gesti. Se quei gesti tu non ti si eserciti, non li impari, non ti vengono spontanei. Perché purtroppo noi, da dopo Adamo ed Eva, abbiamo la concupiscenza, che non è soltanto il desiderio sessuale incontrollato. La concupiscenza è una sorta di egoismo continuo. Noi stiamo sempre a cercare noi stessi. Noi ci aspettiamo da tutti che ci amino e vorremmo da tutti che ci amassero, ma non siamo mai pronti a fare un minimo atto che faccio sentire amata un'altra persona. Sapete quanti ragazzi e quante ragazze, forse anche tra quelli che mi ascoltano, hanno sofferto enormemente perché i genitori non hanno capito l'importanza anche di un gesto tranquillo, tipo dare il bacetto a tuo figlio prima di andare a letto. E non è fare questo e tu dai l'importanza a queste scemenze. Gli uomini oggi si difendono così, sarebbero scemenze. La vita è fatta di cose piccole. Ordinariamente, non è fatta di cose grandi. Piccola pausa, che sono le 17, ho sentito la campana, facciamo insieme l'Ave Maria per salutare la Madonna. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tu, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Allora, questo per dire che le parole, a volte anche una piccola parola fa male. I gesti, a volte anche un piccolo gesto, fa male. Fa male, facciamo tanto male. Allora, questo comandamento, che tocca principalmente, vedete, le parole, ci aiuterà a riflettere un po' sull'importanza della carità. Guardate, io personalmente, le maldicenze e le calunnie sono una cosa brutta, sono diffusissime. Smettiamola, vi prego, almeno miei ascoltatori, guardate, quando andate dall'altra parte, io mi dovrò fare una caterva, ammesso che non vada all'inferno, di purgatorio, d'accordo? Questo ve lo posso proprio stragarantire. Però se qualcuno potesse dire al nostro Signore, guarda, ti ho sentito Don Leonardo e mi ha fatto talmente pensare che ho smesso di fare le maldicenze. Ah, questo me ne farebbe risparmiare qualche decina di migliaio di anni. D'accordo? Quindi se qualcuno smette, sappia che mi fa un gran regalo, d'accordo? Davanti al Padre Eterno. Le maldicenze sono un male immenso, fanno un male terribile. E lo vedremo più avanti ancora di più quando la maldicenza diventa mormorazione. sapete quando è che la maldicenza diventa mormorazione? Quando io sento Tizio che parla male di Caio e vado da Caio a dirgli: lo sai che Tizio mi ha detto questo di te? Quindi seminando zizzane e mettendo le persone uno contro gli altri, a volte scambiando questo come gesto di amicizia e gesto di stima. Stiamo lontani da questa roba qui, eh. Stiamo lontani. Pensate a quante purtroppo sciaguratissime famiglie hanno problemi marito e moglie, sapete che cosa fanno? Vanno a parlare male reciprocamente di sé ai figli. E tuo loro figlio diventa il campo di combattimento di madre che mi parla male di mio padre, c'ha visto quello, bla bla bla bla. E il padre che parla male, c'ha visto tua madre, bla bla bla. E così trasformiamo il pianeta Terra, che già non è tanto ospitale, nemmeno nell'anticamera del purgatorio, ma nell'anticamera dell'inferno. E dopo ci andiamo a stupire, dice, ma perché, sapete, alcune famiglie vanno in crisi, alcuni matrimoni finiscono per motivazioni eclatanti, ma sono poche. La stragrande maggioranza vanno in crisi perché? Per questa caterva di piccole cose, è lo stesso discorso che io faccio sempre sui peccati veniali, cioè non si sono mai date una coltellata forte, ma si sono stati a pungere con uno spillo tutti i sacrosanti giorni dalla mattina alla sera. Voi immaginate uno che, cioè, una puntura di spillo che cos'è? Cioè, una puntura di spillo non ti fa piacere, però certamente una puntura di spillo non ti ammazza, no? Una puntura di spillo è una punturina che ti fa una piccolissima ferita, però ferita fastidiosa, no? Ma non è una coltellata, neanche una coltellata a volte ti ammazza, perché una coltellata ti può semplicemente ferire, ti ammazza una coltellata al cuore. Però immaginate che se io mi prendo 20 punture di spillo al giorno, saranno 600 punture di spillo al mese. 600 per 12 quanto fa? 7200 punture di spillo all'anno. Per 10 anni sono 72.000 punture di spillo. Immaginate voi un corpo umano con 72.000 punture di spillo in tutte le parti del corpo? Provate a immaginarlo. E questo sono le piccole mancanze, le piccole frecciate, le piccole cose, i piccoli gesti di scomunione, in continuo. E dopo dici: ma è finito sto matrimonio, sembrava che andasse tutto bene. Tutto bene di cosa? Tutto bene di cosa? Immaginate com'era la Sacra Famiglia di Nazareth, come facevano a gara nel volersi veramente bene gli uni verso gli altri, nel prevenirsi, nel sorridersi, nel farsi prossimi, nel farsi vicino, nel rendersi servizi. San Giuseppe si accorgeva che la Madonna ci aveva bisogno di una cosa, subito a farla, e viceversa, la Madonna si accorgeva di una cosa, subito a farla, senza neanche farsele chiedere, come dovrebbe essere. Allora, nel corso della storia della Chiesa, io ho citato il santo curato d'Ars, vari santi hanno fatto omelie di fuoco sui peccati di lingua. Ecco, recentemente un sacerdote che molti conoscono, che era un salesiano esorcista, Don Giuseppe Tomaselli, l'abbiamo già credo citato in qualche altro comandamento, perché ha scritto qualcosa anche sull'impurità e sulla modestia. Però scrive un bellissimo libretto difficilmente reperibile in giro, perché come sempre le cose belle sono difficilmente reperibili, che è I peccati di lingua, dove fa un excursus, partendo anche dalle cose grossolane, tipo la bestemmia, mostra quali sono le tipologie più frequenti di peccati di lingua e quanto male fanno. Ottimo testo di lettura spirituale e di meditazione, un aureo libretto, insomma. Ora, la materia, vedete, quindi l'ottavo comandamento, uno dice: ma l'ottavo comandamento, mo vedremo subito oggi se ci riusciamo. Ci sono alcuni peccati mortali, ovviamente, contro l'ottavo, ma la stragrande maggioranza, tipo le piccole maldicenze, ve lo dico subito, sono peccati veniali. Però dobbiamo fare attenzione a non pensare che un peccato veniale, ah, ma è veniale, quindi non fa niente, perché ricordate gli esempi dei dispilli, oppure quello che ho fatto su un vademecum per esame di coscienza. La tovaglia bianca e le piccole macchioline. Che facciamo? La tovaglia bianca e le piccole macchioline. Che voi invitereste a pranzo una persona dove su una tovaglia bianca ci fossero 50 piccole macchioline? Una forse non si vede. due forse non si vedono, voglio pure concedere che 10 non si vedono, ma 50 macchioline si vedono. Certo, non c'è un macchione grosso così, non è cascato, non lo so, un cucchiaio di sugo e c'è una, a Roma la chiamano una pizzonta, che, per cui è ovvio che quella la devi lavare, no? Allora, le pizzonte sarebbero i peccati mortali, ma la nostra anima purtroppo è continuamente macchiata, macchiata, macchiata, ragazzi, dai peccati veniali. E similmente noi stiamo a punzecchiare, punzecchiare, punzecchiare, punzecchiare, punzecchiare, punzecchiare il prossimo, quando il nostro pensiero è esternato con parole, che è l'oggetto proprio di, o con gesti. Possiamo punzecchiare, punzecchiare, punzecchiare, punzecchiare, oppure possiamo accarezzare, accarezzare, accarezzare, accarezzare, quindi costruire amore. Dobbiamo rifletterci su queste cose, ragazzi. È così. È così. Allora, quindi questa materia, anche se nella stragrande maggioranza dei casi è lieve, quindi non dà luogo di per sé stessa a peccati mortali, però è molto più grave e molto più seria di quanto si pensi, perché questi peccati sono comunissimi, ne vengono commessi tantissimi e a cuore estremamente leggero. Anche da persone che professano vita devota, guardate che è rarissimo che le persone vengano a confessare: ho mancato la carità, la dolcezza in parole, ho mancato la carità perché ho fatto discorsi maldicenti. D'accordo? Le anime devote generalmente non dicono le parolacce, che non si devono dire, sono peccati di lingua, poi le vedremo, le parolacce non si dicono, d'accordo? Però secondo me è più grave che uno in un momento di rabbia se ne esce con una volgarità, magari detta da solo, usa un'espressione volgare, d'accordo? Imprecando, non lo so, contro, dice, non lo so, sto caspita di bicchiere, perdonatemi che sono un po' chiaro, però dicendo al posto di caspita un'altra cosa, magari gli cade per terra un bicchiere e dice, ma guarda sto caspita del bicchiere, che stupido. Una frase, cioè sicuramente non è un atto di virtù, ma è più grave che dica questo, o è più grave che faccia una piccola maldicenza su una persona. Ditelo voi. Non sto dicendo di dire parolacce, state ben attenti a quello che sto dicendo, no? Però io vi dico la mia esperienza personale di servitore in cura d'anima, quando una persona fa vita devota, prova generalmente una giusta avversione verso la volgarità. Quindi se dice una parolaccia, quello te lo dice anche con cuore, padre, mi è scappata una parolaccia, purtroppo. Va bene, cioè va bene, non va bene, cioè, va bene, prendo atto. Però come mai così in pochi dicono che gli scappano le maldicenze? Eppure secondo me le fanno. Perché non sono sensibili a questo fatto qui, non gli danno peso. Quindi, per questo che la materia è seria, perché i peccati ne vengono fatti e tanti, ma non vengono proprio presi in minima considerazione. E a volte fanno un grandissimo male, perché oggi noi abbiamo il villaggio globale, abbiamo il villaggio globale. Una persona come il sottoscritto che ha scelto di abitare, perché penso che sia la volontà di Dio, il mondo del web, in un certo modo, deve essere consapevole che l'eco delle cose che dico può essere grosso. Potrebbe essere. E non è umiltà schernirsi e mi dice, vabbè, ma chi ti si fila, chi ti sta a sentire? Non può dirlo a priori. Ecco, pensate oggi i mezzi di comunicazione e coprono tante carognate, perdonatemi il termine che fanno, sotto lo specioso pretesto del diritto all'informazione. Diritto all'informazione che spesso e volentieri diventa diritto alla diffamazione, diffamazione senza riparazione conseguente. Quando parliamo della diffamazione, se tu diffami una persona, come per rubare, l'abbiamo visto, no? Penitenza obbligata quando uno ruba, è che restituisca quello che ha rubato. Se non ce l'ha, elemosina dell'equivalente. Questo lo dice il Catechismo della Chiesa Cattolica, ragazzi, non lo dico io, andatelo a leggere. la diffamazione, cioè quando tu diffami una persona, ancor più dicendo il falso, con la calunnia, tu ti confessi e prendi perdono, ma la penitenza obbligata è che tu vai da quelle persone, oppure se l'hai fatto tramite giornale, scrivi un altro articolo dove dici: io a questo l'ho ricoperto di fango senza motivazione, le cose che ho detto erano false, quindi non le dovete prendere per buone, perché c'è la riparazione, perché l'onore e la buona fama sono beni fondamentali per il vivere civile, per il vivere sociale. Tu non li puoi togliere e poi così. C'è la famosa, non la racconto un'altra volta, forse la racconterò quando ne parliamo, il famoso aneddoto della gallina spennata che racconta San Filippo Neri. Si vede nella fiction di quella con Gianni Proietti, proprio si vede proprio bene questo episodio, no? Allora, quindi bisogna fare attenzione, perché attraverso questi mezzi a volte vengono letteralmente ricoperti di infamia e di ignominia la dignità di non poche persone, buone o cattive che siano, perché anche se una persona è cattiva e l'ha fatta qualcosa, stare a vomitare fango, fango, fango, fango, fango, anche col pretesto di dire: ma questo è l'ha fatte, non è certamente una cosa buona. Gesù non ha detto soltanto non giudicate e non sparlate, ha detto anche non condannate. Cioè, anche quando una persona è colpevole, non ci mettere i carichi da 11, non avere fretta di prendere le pietre e di tirargliele addosso, perché tu forse non hai fatto le cose che ha fatto quello, ma ne hai fatte qualcun altro. Per cui non avere fretta di prendere le pietre e tirarle addosso alla gente, se sei un discepolo di Gesù. Quindi io spero che attraverso queste, anche quando parliamo amore, amore, amore, amore, io sento parlare di amore da gente, perdonatemi, insomma, che c'è una lingua che taglia e chiude, ma che te parli d'amore? Cioè, e c'è una lingua che taglia e cuce, non è che una lingua che taglia e cuce non può parlare d'amore, può parlare d'amore in un certo modo, dice, io le saprei tante cose, ma io purtroppo sono il primo che non riesce a metterle in pratica, quindi le dico, abbiate pietà, perché io stesso cercherò di migliorare, perché non sono un grande testimone, anche se mi ergo a maestro. Ma ci sono persone che non ne parlano affatto in questi termini. Parlano d'amore, poi destra e sinistra, e poi c'hanno il cimitero intorno, con la lingua che c'hanno. Allora, cominciamo col dire le cose più gravi, che tanto queste le eliminiamo subito perché penso che si capiscono tutte. No, abbiamo già accennato. Ah, oggetto immediato è proprio dell'ottavo comandamento, così è com'è nella sua formulazione testuale, non dire falsa testimonianza. La falsa testimonianza, specialmente processuale, è un peccato gravissimo, oltre che essere reato da codice penale, perché produce delle conseguenze gravissime, d'accordo? Perché produce, essendo la testimonianza, qui vi parlo da avvocato, una delle prove legali, se tu rendi una testimonianza fino a prova contraria, quella testimonianza è vera perché tu prometti di dire la verità e quindi viene acquisita agli atti di un processo come prova. Per cui se tu testimoni il falso contro una persona, sia da un punto di vista civile che da un punto di vista penale, questo si ritroverà contro pronunciata una sentenza gravosa nei suoi confronti, essendo innocente. E questo è un male gravissimo che viene fatto alla persona. D'accordo? E questo è noto dal fatto che la fattispecie costituisce anche reato, no? Così come non soltanto la falsa testimonianza, ma la reticenza, perché in alcuni casi si ha il dovere di dire la verità che si conosce e non si può tacere. In alcuni casi, poi riprenderemo questo discorso, perché il fatto che in alcuni casi non si possa tacere non vuol dire che si debba sempre dire a tutti tutta la verità. E che ogni volta che non si dice a tutti tutta la verità, come alcune coscienze non ben formate pensano, ci si debba accusare di aver violato l'ottavo comandamento. Niente affatto, come vedremo. Ecco. Quindi, quando questa forma di calunnia, quindi la menzogna, il falso, colpisce o come dire, l'onorabilità di una persona nel senso che gli causa una condanna processuale, civile o penale, oppure nei casi che ho fatto prima, quando assume la forma della calunnia o della diffamazione, quindi attribuisce alla persona cose false che gli comportano la perdita della buona fama, nell'uno o nell'altro caso queste due fattispecie, calunnia, diffamazione e falsa testimonianza, costituiscono altrettante fattispecie del codice penale. D'accordo? E quando sono diffuse tramite mezzi di comunicazione, aggravano ulteriormente il peccato e comportano l'obbligo, nel dovere di riparazione che consegue a questi peccati, di usare gli stessi mezzi e canali utilizzati per screditare il prossimo. D'accordo? Quindi queste sono le due in assoluto fattispecie più gravi. Ecco, fuori di queste due gravissime fattispecie, vedremo che non sempre i peccati contro questo comandamento in se stessi possono, come dire, essere configurati e presentati come caratterizzati dalla materia grave. Ora, dobbiamo ricordare anzitutto una cosa, pur non essendo sempre materia grave. Penso che abbiamo già fatto questo discorso per gli altri comandamenti. L'ottavo comandamento, come anche il settimo, come anche il sesto, come anche il quinto, come anche il nono e il decimo, come vedremo, e come il secondo, è espresso in forma negativa, cioè non dire falso, falsa poi testimonianza, potremmo anche dire non dire il falso, non mentire. Essendo pronunciato in forma negativa, ricorderete anche per gli altri comandamenti, questo significa che mentire non è mai lecito. Non sempre mentire è un peccato, così come rubare non è mai lecito. Abbiamo visto. Ora però, così come uccidere non è mai lecito. Attenti però. Abbiamo visto che non uccidere dovrebbe essere formulato nei termini di non ammazzare. Perché in alcuni casi estremi non si toglie ingiustamente la vita del prossimo. Vi ricordate i casi estremi di quando, per esempio, uno Stato è costretto a fare la guerra per difendersi da un'invasione altrui? Questo è uno dei casi pacifici di cosiddetta guerra giusta. Io subisco un'invasione da parte di uno Stato illegittima, è ovvio che devo assolutamente difendermi e respingere l'aggressore. Allora, tutti quanti i soldati che uccidono poi le persone sul fronte vanno tutti all'inferno, devono tutti confessarsi. Ecco, vi ricordate che abbiamo fatto questo caso, no? Così come non rubare, vi ricordate, è il principio che deve essere temperato con quello della destinazione universale dei beni, per cui in casi limite, allora, quello che faceva Robin Hood non si può fare, quindi di per se stesso non si può rubare ai poveri per dare ai ricchi. Però in caso estremo, ricordate il caso estremo che ho fatto, cioè una persona che si trova disperata, con i figli a carico, senza lavoro, non per colpa sua, c'è un figlio che sta morendo di fame, d'accordo? Morendo, proprio morendo di fame, si trova in un campo, dove ci sono degli alberi e prende una mela da un albero dove ce ne stanno tante, senza chiedere il permesso perché non lo vede in quel momento al proprietario. Trovandosi in condizione di fame assoluta e non dipendendo questa da colpa sua, con tutte le circostanze che si dice, non si può dire che in quella circostanza abbia rubato, pur prendendo materialmente un bene che non è il suo. Spero di essere stato chiaro. Ecco, questi sono principi limite, sono principi estremi che io sto cercando di spiegare bene. Vi prego, ragazzi, che se aveste qualche dubbio, o mi contattate personalmente o chiamate in radio. Perché non sto dicendo che si possono rubare le mele, sto parlando di casi estremi. D'accordo? Ecco. Così mentire non si può mai, per nessun motivo. Ecco. Però, come state attenti, non sempre togliere la vita umana vuol dire ammazzare. Non sempre prendere un bene altrui vuol dire rubare. Non sempre non dire tutta la verità o dire solo parte della verità vuol dire mentire. D'accordo? Quello che vieta questo precetto è dire il falso. che non può essere mai detto. Per cui, esempio, diceva Paolo Giovacea anche Padre Pio, la bugia di scusa non si può dire mai. Capite? Però, allora immaginate, vi faccio l'esempio che faccio io, ve lo confesso tranquillamente, no? Allora, sapete che per esempio arrivano 300.000 telefonate pubblicitarie in parrocchia, io sono l'azienda X, io sono il rivenditore Y, io sono l'agenzia telefonica Gamma, ecco. Magari mi arriva quella telefonata quando sto preparando un incontro, d'accordo? Quindi ho bisogno di concentrazione. Allora, quali sono le disposizioni che ho dato alla Perpetua? Quando ci sta? O qualche collaboratore quando ci sta? Rispondono al telefono. Poi, se è una persona che vuole parlare con me, perché dice c'ho un familiare che sta male, me lo passano subito. Se è una persona che vuole confessarsi, mi chiamano subito. Se è una pubblicità, rispondono. In questo momento il parroco è occupato. Che è la verità. Io in quel momento sto occupato con una cosa più importante. Quindi non dicono non c'è, per esempio, perché il parroco c'è. Non dicono non c'è, c'è, io sto dentro casa. Quindi però dici, oddio, allora io devo rispondere per forza. No, uno dice una cosa vera, che consegue lo stesso obiettivo, senza dire, tu sapete quante volte mi è capitato della segretaria, del professionista X, dice che cosa devo dire quando, e quello mi dice, se mi chiamano rispondi, di che non ci sono per nessuno. Tu rispondi, in questo momento l'ingegnere è occupato. Richiami. Dici, ma poi quello mi viene a sgridare, mi viene a dire, dico, tu gli dici, caro ingegnere, vuoi non parlare al telefono? Va bene, ci penso io a non farti parlare al telefono. Tu non ti preoccupare che nessuno ti disturberà. Circa i mezzi fammi scegliere, a me però, no? Capite? State attenti però, vi faccio subito un esempio estremo. Se una persona... Così cominciamo subito a capire, poi riapprofondiremo questi discorsi. Io faccio il prete, io sono un prete, voi sapete che la confessione è ultra blindata. Dicono alcuni autori, io sono d'accordo con questi, che io non posso neanche dire se una persona si è venuta a confessare. Cioè è una domanda a cui io non devo rispondere. Quindi se a me una persona viene a dirmi che tizio si è venuto a confessare, allora... Siccome io questa cosa non la posso dire, quindi questo è un segreto che rimane fra me e te, quindi per te io questa cosa non la so. Quindi io posso rispondere, non lo so, senza mentire. È la stessa cosa, chi di voi per esempio è un professionista, chi di voi mi sta ascoltando, un avvocato non può parlare delle sue... cose, i segreti d'ufficio, i segreti professionali non possono essere detti. Per cui se trovi il cafone che ti fa una domanda indiscreta, oh ma la causa di tizio come va? Tu devi rispondere, ah, so niente. In questo caso c'è la riserva mentale che bisogna fare, io non so niente per te. E per te io non sono niente perché sono tenuto a non sapere niente per te per l'osservanza della mia deontologia professionale. Così come io non so niente se una persona si viene o non si viene a confessare con me, perché se questo vuole dirlo lo dice lui o lo dice lei, non lo dico io. E se non vuole dirlo e se non vuole far sapere che si è confessato, io non posso certamente dirlo. Allora, in questo caso io non sto mentendo, perché quella cosa io per te non la so e ti sto dicendo che per te non la so. Capite quanto deve essere formata la nostra coscienza? Altrimenti capite che si ingenererebbe un guaio. Sapete, sapete quante volte mia madre quando era viva faceva domande, se trova un familiare ogni tanto diceva, ma non mi fa queste domande, io non ti posso rispondere, io sono prete, e non si può mai scambiare una parola, dico, non è che non si può scambiare una parola, non mi fa domande sulle singole persone, sulle cose, perché io non ti posso rispondere. Per rispetto per loro, anche perché non so se una cosa l'ho saputa in confessione o non l'ho saputa in confessione, quindi non mi fa domande indiscrete. Però, mentre una mamma si può rispondere così perché uno ha un rapporto un pochino familiare, se trovi la persona invadente che è, devi difenderti e devi rispondere. Non lo so, perché questa è una cosa che io non so per te. Quindi la cosa fondamentale è che quello che si dice però deve essere sempre vero. Quindi o tu dici parte della verità, sono occupato, o tu dissimuli la verità quando sei tenuto a farlo con una riserva mentale, oppure quello che dici, la cosa fondamentale, deve essere sempre vero. Quindi il dire gratuitamente il falso non si può. Per esempio, se io volessi dire, è venuto quello a confessarsi, ah ma guarda che oggi non sono proprio entrato in confessionale, e ci sono entrato, è una bugia. Non lo devo dire. Quindi, per difendere quella giusta cosa che devo comunque difendere, devo trovare un altro sistema che è quello che vi ho detto. Quindi la verità, quando non si tratta di testimonianze, di circostanze in cui si è tenuto a dirla tutta e bene, si può tacere in tutto o in parte, ma mai dire in falso. E nei casi estremi, specialmente quando ci sono circostanze chiare dove non si deve dire nulla, si può ricorrere alla riserva mentale. Semplicemente perché in quella determinata circostanza io non posso neanche in generale, perché se io rispondessi con una mezza frase potrei far capire qualcosa. Siccome il segreto è assoluto e il silenzio è assoluto, io per te posso dire che non so nulla. Poi eventualmente riprenderemo questi esempi, però spero di essere stato chiaro, in altri momenti e nei successivi, diciamo, passaggi dell'analisi di questo comandamento. Io vedo che siamo arrivati al termine del tempo a nostra disposizione, vi do come sempre, se volete, appuntamento alla prossima settimana, mando su tutti e sulle vostre case, famiglie e sulle vostre case, cose la mia benedizione, ci vediamo se Dio vuole. Ci sentiamo, se Dio vuole, la settimana prossima. Ave Maria.